Mary. Sì, signore. E che so fatto, è meglio Mary. E la sono passata dalla mamma Sattara. Pronto, preparato ti sei? Oh, ancora presto, la mamma Fredici. Stavo dormendo, caccia. Ho acceso la stufa, avevo freddo ai piedi. Beh, e mi stavo dormendo. È vero proprio. È un famone! Ancora, ancora non c'è. Andiamo bene, andiamo! Che mai? Che bava! E che vere? Ah? E che vere? Nuda, ho che saluta, Leo! Oh, mi segna mente, boh, non dico, Leo! Sto cancellando tutti i messaggi che ci sono e non riesco a cancellarli tutti quanti completamente! Sì, devi andare sul mio nome, dove c'è scritto Luca, su WhatsApp, tieni premuto lì e poi ti fa vedere il cestino ed elimina direttamente, non devi eliminare uno a uno. Adesso provo. Attento, un famone! A bisogno! Peppa! Ehi! Luca, ci sei? Luca, Luca, ci sei? Ci sei, Luca? C'è qualcuno qua? C'è qualcuno?